la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Fortuna ritengo una parte essenziale della vita, tant'è vero che vorrei finire la mia vita che sul mio epitaffio fosse scritto: era una testa di cazzo ma aveva un culo terribile. You the cool maze, say one prison call in S and I choose all. All right. Mara Maionchi è la ragazza di Bologna venuta su un po' per fortuna, un po' soprattutto per aver messo in ogni cosa che faceva una passione infinita. È quello che immediatamente trapela e che colpisce e rapisce il pubblico di X Factor quando la discografica si ritrova tra i giurati. Mi sono contenuta perché è vero, io accetto anch'io quello che il pubblico giustamente vota, però mi fa dispiacere, okay. Mai una novità, mai, cazzo, no. Sono 40 anni, okay. A Bologna i portici tengono in piedi le case. Reumatismi e le artriti di braccia operaie. Mara Maionchi, bolognese, classe 1941, è attualmente considerata la figura femminile di maggior spicco nella discografia italiana. Una vita fatta in salita, un carattere forte e solare che la porta da Bologna a Milano quasi per caso. Una ragazzina che non ha voglia di fare l'università e che sta stretta in qualsiasi cliché di fine anni 50. Mara è impetuosa, impulsiva, generosa. Tutte doti che conserverà anche in un'età più matura. Da anni è infatti testimonial di malattie rare e si lancia con piacere in progetti a sostegno degli ultimi. Sono anche testimone della sclerodermia, che è una malattia rara che colpisce soprattutto le donne, come lei sa, i problemi enormi che ci sono in Italia per le malattie rare, quello di non essere riconosciute, per cui ci sono delle medicine da prendere, delle cure da fare, dei riconoscimenti da ottenere. Lei capisce che è una malattia che si scopre molto tardi, quando è molto tardi, come tutte le malattie scoperte tardi, creano più problemi. Insomma, faccio queste due cose. Ecco, lei perché ha deciso di mettersi in gioco? Perché tutto sommato, sì, è vero, non è un impegno così importante quello di fare il testimonial, però io credo che una persona come lei abbia scelto proprio e si sia decisa a fare. Sì. Beh, ho deciso perché mi hanno fatto la proposta e mi sono sembrate due tipi di intervento molto utili. Uno sui bambini che hanno tutta la vita davanti e devono cercare di vivere al meglio possibile, e l'altro è sulle donne, che questa strana malattia, come tutte le malattie rare e autoimmuni, crea dei problemi enormi perché non sono curabili, non sono riconosciute, quindi non sono assistite a livello ospedaliero come dovrebbero. Ecco, in queste due cose che sono più difficili mi è sembrato di potermi interessare. Senta, lei in qualche modo, dicendo, rispondendo a questa domanda, ha un po' raccontato com'è lei, no? Nel senso che poi alla fine, guarda caso, no? Quelli che non vengono molto ascoltati, poi lei li ascolta, cioè è un po' il suo, in qualche modo il suo standardo. Ma devo dire che mi piacerebbe fare di più. La verità è che ascoltare, secondo me, è una delle cose importanti della vita, e devo dire anch'io ho avuto difficoltà ad ascoltare, perché è forse più difficile ascoltare che parlare, e quindi spero di impararlo sempre di più, perché parlando dico tante sciocchezze, invece se ascolto apprendo tantissime cose, ma ancora adesso che ho 100 anni, voglio dire, perché sì, perché la vita cambia, non sembrano sempre le stesse cose, non è vero, perché ci sono delle visioni, il tempo passa, i tempi cambiano, le situazioni si mutano e quindi l'ascolto è sempre diverso. sul finire degli anni 60 Mara Maionchi sale da Bologna a Milano. Nell'inverno del 1967 legge un'inserzione sul Corriere della Sera. Cercano una segretaria per l'ufficio stampa di una casa discografica. Mara spedisce il curriculum, fa il colloquio e viene assunta. Nel giro di pochi anni, alla Ariston Records, Mara Maionchi diverrà responsabile della promozione musicale. È la gavetta, quella fatta di giorni messi in fila uno dopo l'altro, a fare di Mara Maionchi la discografica che porterà alla ribalta talenti come Gianna Nannini. La mia famiglia d'origine era un padre toscano e una madre lombarda di Como. E sono nata a Bologna, dove ho vissuto 20 anni, e poi mi sono trasferita a Milano perché mi sembrava che Milano nel 1961 fosse una terra di occasioni, e così alla fine per me è stato. Io che non ho fatto l'università, non ho fatto studi particolari, non so fare niente in particolare, alla fine ho trovato la mia situazione. Perché lei in realtà, cioè, di gavetta ne ha fatta e anche tanta, sì, certo, anche certo. Diversa, diciamo che la discografia è arrivata dopo un bel po' di tempo, ma prima di lavori ne ha fatti, insomma. Sì, certo, giusto, faceva, siccome non avevo voluto studiare perché non mi piaceva, mio padre giustamente dice: chi non lavora, chi non studia lavora, perché non è possibile perdere tempo giornalmente a fare niente, a stare in giro a fare. Non ero neanche tanto adatta a fare la signorina di buona famiglia, perché proprio non ce l'avevo nel DNA, per cui sono andata a lavorare a Bologna, alla Saiba, che adesso non c'è neanche più, facevano spedizioni internazionali. Poi di lì, di posto in posto, sono arrivata fino al 1967 nella discografia. Ma se lei pensa che ho iniziato a lavorare nel 59, infatti, forse, cioè, non è possibile che sia proprio questa cosa, questo suo percorso, che piace molto anche alla gente. In qualche modo si sente, no, che lei non è stata lì a pettinare le bambole, come diceva qualcuno. Ma io ho fatto un percorso come quelli della mia epoca hanno fatto tanti, anche a tanti con anche altrettanti ed enormi successi, voglio dire, per cui io sono una persona normale. La verità è che io credo che però la gavetta sia fondamentale, ma anche per chi ha studiato. Io credo che, avendo del talento, anche in qualsiasi lavoro uno sceglia, però purtroppo lo sa usare al meglio quando conosce di più le cose che vuole fare. Non c'è dubbio che sono una editrice della gavetta, ma anche nei talent, io lo dico sempre, anche se poi il talent ti dovrebbe dare l'enorme successo subito, al quale credo non sei pronto, e per cui dovresti sapere che quella è un'occasione che dovresti sfruttare al meglio, ma che puoi lavorare tutto ca sempre. Ecco, lei appunto parlando dei talent, in realtà anche prima di approdare ai talent, lei ha scoperto veramente grandissimi talenti. Che hanno fatto tantissima fatica, scusi se l'ho interrotta, voglio dire che hanno fatto tanta fatica a uscire, perché così è scritto del cielo, perché anche se uno ha il talento, imparare un mestiere per lavorare col proprio talento ci vuole. Voglio dire, Michelangelo è andata al ghirlandaio, alla bottega del ghirlandaio, vogliamo parlare di uno che non aveva talento, anche quelli che fanno il cinema cominciano ad aiuto registi, insomma il talento si coltiva, senza la coltivazione del talento i risultati sono modesti e non duraturi. E si ricorda la prima volta che ha prodotto un artista, che emozione ha provato? Beh, è la prima volta che ho cominciato a lavorare come artista, che emozione ho provato, certo. La prima volta che poi un prodotto lavorato da me, eccetera, è andato in classifica, la prima volta che io e la Gianna Nannini ci siamo trovati in una camera d'albergo dove lei era entrata in classifica dopo America, che era stato il primo movimento, devo dire, è stato proprio un fatto commovente. Ci siamo commosse perché era stata tale tanta la fatica, la difficoltà, che aver avuto un risultato ci sembrava veramente di aver vinto, di avere veramente un'emozione formidabile, sì. Senta, lei... avere un risultato fa sempre emozionare, credo, no? Sì, anche una partita carte. Il Il risultato di Mara Maionchi e Gianna Nannini è uno dei più bei dischi mai realizzati. America scala le classifiche a ragione. È un album innovativo, coraggioso, oltraggioso e intenso. Un album bellissimo. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Sei bella in questo momento, più bella adesso che il vento ti allontana da me. Mara Maionchi, la ragazza di Bologna, arrivata quasi per caso a Milano, è ora una donna conosciuta nell'ambiente. Si muove con disinvoltura. Una vita trasgressiva nelle apparenze, ma molto solida nella sostanza. La sua vita professionale decolla in un periodo magico per la musica, gli anni a cavallo tra i 60 e i 70. Il periodo più intenso coincide con l'ingresso della Maionchi nella casa discografica di Mogol e Battisti. È il 1969. Mara Maionchi cura per la neonata numero uno i rapporti con la stampa. Saranno anni meravigliosi, dirà Mara, pieni di scoperte, incontri. Mara Maionchi ha intanto conosciuto quello che sarà suo marito. È il 1976. Da quella storia d'amore nasceranno due bambine. Beh, la discografia era fantastica, perché era tutto nato da poco. Lei sa che le multinazionali non c'erano ancora in Italia, ma erano rappresentate da etichette italiane, quindi nasceva tutto, si provava di tanto, c'erano tante cose che sono sparite, voglio dire, le sale da ballo dove la gente poteva andare a cantare, dove poteva imparare, dove iniziava un mestiere, che poi è quello che hanno imparato tutti, voglio dire, anche la grande Nilla Pizzi suonava con un'orchestra, quella di Angelini, e sa quante serate facevano, che mestiere che imparavano, che poi potevano mettere con poi tutto il resto ben fatto a grande frutto. E poi c'era la novità, e poi gli anni 70, si può immaginare, è stato con l'anni della rivoluzione culturale, è stato un fermento terribile, i nuovi cantautori, l'America, i Bob Dylan, insomma è stato veramente fantastico. Gli anni dei 60 e 70 sono stati a livello lavorativo gli anni migliori della mia vita, ma credo non solo della mia. No, è stata fortunata, perché credo che siano stati dal punto di vista proprio artistico anni di un creativo... Certo, creativi, rivoluzionari, controcorrente, cambiava un mondo che poi, devo dire, si sperava che cambiasse in meglio, non è così cambiato in meglio personalmente, penso, però almeno c'è stato lo sforzo di farlo. Perché dice che non è cambiato? Beh, insomma, non credo che adesso siamo in un periodo storicamente così bello. Obiettivamente credo che ci siano tante cose di cui forse non abbiamo capito, non abbiamo approfondito, ma certamente è un momento di stasi. Oggi parlo in generale, soprattutto della musica, le novità. Ma sa, i fatti che accadono sono fatti che evidentemente non fanno ben sperare per i cambiamenti, questo parlo in generale nel mondo, per cui c'era un'attenzione allora alle nuove possibilità, ai cambiamenti, alle nuove ideologie, alle situazioni che faceva sperare in un cambiamento assai migliore. Questo non è successo e oggi è un momento di delusione anche della musica. Senta, le faccio altre due domande e poi la lascio andare. Una è proprio relativa alla maternità. Io so che lei ha due figlie e ha anche un nipotino. Sì, no? Tale Nicola. Sì. Tale Nicolò. Tale Nicolò. Ecco, sì. Quanto hanno contato queste due figlie, insomma, questo percorso di maternità, eccetera, nella sua vita? Molto, molto. Devo dire che la famiglia è stata fondamentale, perché comunque nella famiglia impari tante cose, impari le cose buone, le cose anche non buone, impari a comportarti in un certo modo, perché poi devi stare molto attento a comportarti in un certo modo, perché fai dei danni agli altri, e questo impara a trattenerti. Sembra strano che lo dica io, che io di trattenimento adesso, però in genere mi gioco la mia dell'educazione, ma nel senso, però è contato molto avere le due figlie, avere il problema, sai, i figli sono il proseguimento della nostra. È la nostra eternità, no? Dicono. Sì. E poi Nicolò, e quindi cerco, con Nicolò sono bravissima, le vede che anche io canto, no, al massimo che ho detto è per Bacco. No, ma perché devo dire che i bambini non mi fanno mai venire voglia di essere aggressiva, perché i bambini sono carini, sono contenti, cantano perché si divertono, non hanno nessuna aspettativa del loro canto, almeno non sanno ancora, non hanno, ecco. Per cui questo è molto felice, molto libero. Il canto così è veramente divertente. Se uno non pensa che il canto possa diventare un fatto economicamente interessante, è assolutamente libero. E quindi è molto piacevole. Devo dire, mi sono divertita con Scotti, mi sono divertita con i miei compagni di lavoro, sia Cicchetto, che conoscevo da tanto tempo, grande personaggio nella musica e nella, come DJ, inventore di radio, insomma sappiamo tutti chi è, della Cercato, così giovane, così carina. Per cui mi sono divertita, devo dire la verità, mi sono quasi sempre divertita, però, a fare amici, ho scoperto nuove cose, ho conosciuto due personaggi particolarissimi come Maria e Filippi e la Gregoretti, insomma due fortissime, sono due donne micidiali, nel senso ovviamente buono. Per cui sono stata fortunata. Senta, l'ultima domanda per chiudere questa intervista è sicuramente una domanda difficile, nel senso, se Nicolò o comunque un bambino le chiedesse quali sono le cose più importanti nella vita, lei cosa risponderebbe? Sicuramente gli affetti. No, senza dubbio, l'affetto e il fatto di volersi bene, di interessarsi degli altri è la cosa più importante, è la cosa che a me piace fare di più, anche se non la faccio in maniera sufficiente. Perché dice che non la fa in maniera sufficiente? Beh, perché potrei fare di più, tutti potremmo fare di più. Per cui io se mi ha... vuoi accontentarsi, allora, è vero che Sodoma e Gomorra, dice l'angelo, anche basta uno che si salvi, che salverò la città, va bene, però se uno potessero anche tre o quattro era meglio, no? Senta, guardi, è stato bellissimo intervistarla, mi avevano detto che era molto simpatica, in effetti hanno confermato. Grazie. Ed il culo sui colli, Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, c'è un poco Romagna e in odor di Toscana. Mara Maionchi è la signora che dice le parolacce nelle trasmissioni che vanno a caccia di talenti, è la signora che rappresenta con slancio le malattie rare, la donna che si commuove per una sfumatura romantica. Mara Maionchi è la donna bolognese che ha viaggiato il mondo, ma che, come dirà lei, alla fine resta legata a un fornello, al ragù, alla domenica trascorsa a danzare tra vino e parole grasse. Baudelaire fra Senzio cantava, ed io, modenese volgare, a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. La prima volta termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi rinnovo l'appuntamento sempre domenica, sempre alle 13.30. Se volete potete riascoltarci in podcast. Vi auguro una buona giornata. Un saluto da Cristina Carpinelli. Oh, quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura, e i vecchi imbriachi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza pudore o vergogna, cullati fra i portici cosce di mamma Bologna.